c'è anche Gianni, poi non so chi è entrato là, nel frattempo che io ho sostituito il PL. Ehi, ma quali sono quei PL, quelli di Fusaro? Allora, c'ho delle ispezioni ancora con quel cacchio di PL, infatti li sto tutti buttando via, li sto. Adesso ne ho messo uno di quelli seri, di quelli nuovi che avevo fatto io tra l'altro, e quindi va bene. Ma quei PL già l'altra volta col 440 mi ha fatto la stessa cosa. E l'altra, uno l'avevo messo al 440, uno l'ho messo al 140, perché sto andando con quello, e cazzo mica me la devo rifatto. E infatti, a me piacciono quelli che hanno la bacchelite come misuratore, ordinati da fuori ovviamente, perché qua ti fanno pagare 5 euro l'uno, se ti va bene. Dai, sono in ascolto comunque, dai, sono al computer e sto facendo una cosa delicata, dai, riprendete voi, quelli X. Non ne hanno di quelli bacchelite qua, comunque là io ho provato, li ho pesati, ne avevo uno di quelli vecchi per il 10,58 che avevo preso a Torino tempo fa. Uno pesa, allora quello nuovo pesa 12 grammi, questo di Torino 29. No, è una cosa impressionante, cioè allucinante veramente. No, no, no, questo è Anfano, questo è uno spazzone, sono tutti e due Anfano, BH1000, perché me li sto facendo tutti nuovi, capito? Questo da 30 cm, il tanto dall'accordatore, no, 60 cm questo, il tanto dall'accordatore alla radio. E quelli bianchi li sto tutti buttando via, butto fendi a pezzi e lampendi zitti. Affanculo, non la metto più. Avanti già, non c'è più già. Ma stava provando, forse sta provando qualche altra cosa. Anch'io sto uscendo 3 watt, ma è possibile. Aspetta un attimo. Vaffanculo. Ah, sento, mi stavo prendendo una cicca. Gappa gappa. No, ho detto, sto scendo, possibile che sto scendo un watt e mezzo, invece no, dietro questo qui, questo multimode ha disastro, no? Per dimezzare la potenza, sto scendo 3 watt e mezzo, prima neanche un watt. Invece se sto scendo basso. No, no, stai andando bene. Alla grande. Comunque ti dirò una cosa, io di questa antenna sono soddisfattissimo. È costruita proprio di merda, che l'assidio è costruita molto meglio di questa leva. Però davvero, non lo so. Bella, buona, fantastica. No, va bene, vamos. Aspetta che abbasso. Ecco qua, dai, che era troppo alto, non c'è, questa radio quando iniziano a scaldare, poi adesso ho regolato a caldo, 20 watt. Ehi, già va bene, e cosa ti posso dire? Guarda, per me le antenne vanno tutte bene, una volta che le piatti e che c'hai posizione dove l'antenna irradia bene, sono tutto a posto. Ma io, guarda, avevo tempo fa in campagna la Sirtel, la 2000, quella con 16 radiali, ed era un amore, che era debole, si era troncata al vento. Vabbè, può capitare, Anto, può capitare, io perché non ho mai messo, come stavamo parlando l'altro giorno con Claudio, il produttore, cioè, non ho mai messo una verticale, per dire, 5 bande, che mi è più comoda, perché è troppo alta, la posizione è troppo alta, e ho paura che me la spesi, quindi lavoro con i dipoli, anche se non me ne ha fatti più nulla, figurati, non faccio più manco i 6 metri. Ho dato anche la radio che aveva 6 metri, figurati tu, non mi interessa proprio niente, capito? Vabbè, tu sei una zona particolare, non puoi fare stesso con il vento, vai a notte, però ripeto, costruivano allora delle antenne buone che avevano una resa migliore, perché comunque quella scelta che aveva la stella, aveva la frontera, aveva molto una resa migliore della Mantova, però ripeto, il vento se la mangiava. Io lo dico, qui vabbè, intanto aggiorni, me ne tolgo anche la T230, lo conservo, intanto metto l'antenna diretta, no, non c'è problema, perciò elimino anche quello, perché una volta che sono agganciato su alla Meritron, al commutatore elettronico, giù non ci fa niente, capito? Ho capito. E anche io mi volevo prendere uno di quei commutatori per scendere con un capo solo, ma poi ho detto, ma fa culo, ne scendo due e basta. E a me me ne va venduto Fabrizio a 5 porte, va molto bene, la metro, l'ho fatto pagare anche un prezzo molto, molto basso, lui se l'ha comprato più grosso, e l'ho tenuto perché puoi mettere qualsiasi antenna su, la calata è sempre quella, non hai bisogno di, anche perché io poi ho un sacco di cavo, quindi non è che posso cercare ogni volta, già avevo speso 200 euro di cavo, perché ne avevo preso una matassa da 100 metri, fate il conto, quindi perciò ho lasciato tutto com'è, ho tolto tutto, ma il commutatore elettronico ho lasciato su, se devo montare qualsiasi tipo di antenna mi aggancio lì e il cavo ce l'ho già giù. Vabbè. No, adesso mi voglio cercare qualche schema, io voglio provare a costruirmene uno. No, penso non sia difficile per uno che ha pratica e conosce la componentistica, non penso sia difficile farlo con un fattore buono. Buonasera. Ciao Tony, buonasera. Ciao Claudio, ciao Antonio. Ciao Tony, ben ascoltato, buonasera. No, claro, dipende sempre da come è, che bisogna avere lì, se riesce con l'impedenza, ma riprendi Tony. Claro, sto ascoltando, sto parlando di antenne, eccetera. Sì, la zona di Claudio è bella perché è zona in alto, capito? E giustamente, come ha detto lui, metto l'antenna alta, perde un po' di vento. Quindi, mi dispiace quando c'è l'antenna, si spezza, rompe le palle. E anche perché comunque, non solo quello, no? Spezzano, volano, potrebbero fare danni, e poi non è che puoi stare sempre così come... ci sono sempre i pro e i contro. Ma Claudio c'è il terrazzo sulla Val d'Adrato, vero qua? Sì, non ne ho tegolo io, posso camminare, giocare a pallone. Claudio! Lo so, Cla, però ci devi sempre salire. Vabbè, ma io ce l'ho porta su, non è che devo chiedere permesso a nessuno. Apro, entro nella porta e salgo nel mio tetto. Break! Sì, è già avanti. No, già, sempre punti a capo, sì. Poco fa stavo uscendo, vabbè. Non lo so che cosa può essere, bisogna andare per esclusione, ma le ho provate tutte. Adesso hai fatto il passaggio per intero. Prova No, adesso no, adesso si è sparito il radio. Prova invece a parlare con un tono di voce più basso. Prova. No, Gianni, c'è qualcosa che non va tra quel microfono e quella radio, non è... deve essere che gli è venuto il coronavirus, ragazzi. No, il microfono può essere l'incompatibilità. Ma cazzo, ma se lo mette nel Galaxy va bene, Antonio, ma come si spiega questa cosa? Cioè, più andiamo avanti, più ci sono misteri in queste radio, Coincidenze, grazie. Secondo me sono coincidenze. Deve provare a metterlo, ma rilassi almeno il capo, prova a tirare, qualcosa c'è, non è possibile. No, guarda, l'ho regolato io, il giorno che l'hanno attaccato da favola, usciva benissimo. E poi adesso sta iniziando a difettare. Vabbè. Tony, riprendi, fai girare, dai, che io inizio a mettermi le scarpe e a prepararmi per portare il cane. Io sto preparando lo stesso anche qua, non ne posso stare molto. Sono entrato più che altro a qualche battutina, a salutarvi, perché mi fa piacere ascoltarvi. Tutto qua. Anche dai, sta mai, devo fare cosa? Devo preparare in cucina. Ciao Antonio, ciao Claudio, alle prossime, state bene. Ciao Tony. Adesso mi preparo poi, dopo lo porto. Perché devi preparare la cena? Ancora lavoro tua moglie? Questo è un periodaccio. Vabbè dai, non futtidini, poi vuoi dire in più? Sì, magari. Io non ho tanti soldi, che ho sempre paura che già mi hai capito. No, sono molto più a rischio che ciò. La figlia mia sorella, l'ospedale civile di Alghero, quindi, che ho lì, e così viva, purtroppo. Quello del suo lavoro era prima con la Sassari, quindi viaggiava tutti i giorni, finalmente è riuscita a farsi avvicinare dell'ospedale civile di Alghero adesso. Anche mia sorella è sempre allerta, e purtroppo è così, cosa avete voi? oppure si fa a retta? Ehi, ma con la brittella? Non lo so, c'è la cuscicolo marito. Andava. E tanto io tra un po', da verso le 8 e 10 andrò via da qua. E come sei andato via tu, là, che tu mi hai detto non ti fa niente quel bitter, o cosa era, quella, vabbè, quello ci siamo bevuti, adesso mi scarica, crocro. Cazzo un bitter, come ti chiamo, un alcolico, cos'è, un crudino, cosa mai era, un crudino, forse la roba gasata, perché era gasato e ti ha fatto male, No, vabbè, sono andato stamattina scombussolato. Infatti mi sono mangiato un piatto di riso asciutto praticamente, ci ho messo una carota in mezzo, tutta schiacciata bene, tipo pure là. Cazzo, ci manca fuoco. Comunque arrivi meglio da lì che da casa tua. Va, dici. No, dico, è detto. Almeno in questo apparecchio a questo momento. Vuol dire che anche non sta lavorando bene, tu, non lo so. Qualcosa di sicuro ce l'ha, vorrebbe smontata, solo che al prossimo anno, se Dio vuole che siamo vivi, sperando di sì, si butta a terra, si smonta tutta quanto e si pulisce. Tagliate già fermo. Però cosa facciamo? A terra mettiamo il palo nuovo, ce li ho io quelli lì per te, perché sono grossi, ci mette il palo nuovo telescopico, in modo che ci può fare manutenzione quando vuoi, si abbassa e si alza, capito, non così, e si fa la manutenzione lui. Quando vuoi non ce n'è problema. Sì, poi anche le staffe le facciamo costruire da Roberto, quelle mi ha detto lui, quelle le leviamo qua. Quelle staffe lì non mi piacciono, sinceramente vanno bene. Quelle le avevo piazzate io, Ho fatto il cemento, con cemento rapido, Le avevo piazzate io. E per tenerle ferme, cioè uguali, erano praticamente a livello quelle staffe lì, ti spiego, quando me le stavo scendendo che ancora il cemento era fresco, non so, ma sai che ho fatto, non era rapido, era normale, non era rapido, sto dicendo una balla, e non le ho urtato quella di su scendendo poco a poco, ma l'ho toccata e me ne sono reso conto dopo, ecco perché rimane un po' storta. Le mie vite le hai, io ti fermo la piastra, intanto Roberto te la fa con la piastra, quella è la mia, la piastra, quattro fori, ok, tassello chimico e tira fondo, perché aveva 19 e tu sei a cavallo. Anche è vero. Allora, quelle lì non sono tavelle, no, comunque sono quei forattini lunghi, cioè larghi. Sì, non ti preoccupare, una volta che il buono è un chimico, il bacio a macchina, al volattino, al bacello e a tutto. Non l'hai visto la mia, non l'hai visto le mie, è il cemento armato, c'è la barra filettata da 12 o da 14 mi sembra, ce l'hai visto il mio impianto, no, non te ne ho detto balle, quindi. Ehi, mi sa che cambiamo anche il cavo, là, ci metto 58 che se ne affuti, già funzionano qua stessi. Siamo nati con 58, a voglia, per fare due chiacchiere basta, 58 avanzano già, è chiaro che ce ne hai tanti metri, è un casino, io ho il capo buono perché facendo attività amatoriale è chiaro che devo avere il capo buono, se non arrivi a lungo. Va bene, dai, fatemi mettere le scarpine, riprendi Antonio, non so se c'è qualcuno che vuole entrare, lasciate un attimo di bianco, vedete un po'. Sì, vabbè, dai, sono entrato giusto così a fare un'altra prova, così voglio sentire la Marina quanto arriva, dopo la faccio parlare due secondi, un po' di passaggi. Dai, ci sentiamo dopo se ci sei, tanto io arriverò verso le 8:20 a casa, 8:30. A dopo, ciao. Ciao, non lo so perché devo far fare il pranzo e non ho più un caldo. Sì, sentiamo dopo, dai, già tutto acceso qua, non c'è nessun problema. Ok. Magari la cena, tu non il pranzo, la cena. Vabbè, la cena, dai. Dai, ci sentiamo, ciao, ciao, una passeggiata, ciao, magari se riesco a preparare in fretta, scendo un attimino. Ehi, Anto, va bene, là. A frappè, là, ciao, prepara, vai, ciao. Ciao, Cla. Ciao, Anto, grazie delle due chiacchiere, della compagnia, là. Se ci siete ci aggiorniamo dopo, tanto sono che ora 8:15, quindi, vediamo un po', vai. Grazie a te. Ciao Gianni, se ci sia ancora, Giulio, che ne ha ascolto, Tonino, che ne ha ascolto, eventuali ascoltoni, Antonello, che è sparito. Sentiamo, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ciao Giulio, anche a te, ciao. Giulio, qualcosa ho migliorato, sempre uguale solo, guarda un po', che abbiamo tratto bene l'antenna con Claudio. Sono uguale? Sì, è uguale, 9,5 monowatt. Portante solare, non è leggermente più di più, dai, ma poco. Comunque 9,5 monowatt. Va bene, dai, ciao, buona cena, dai, io vado, ciao. Okay. Ciao Lugarie, ciao Giulio. Cosa stai facendo? Ci impegnato? No, era così, ascolto, guardando un po' la televisione, niente di particolare. No, non avevo voglia di chiacchierare. Per quanto riguarda il discorso del cavo di Luca, io le consiglierei almeno l'H155 o Luca, tu che abiti lì a contatto con altre persone, con antenne eccetera, se metti un cavo scadente può darsi pure che possa dare fastidio alla TV, se metti un cavo migliore, spendi qualcosina di più, ma almeno sei tranquillo che non ci sono spurie, tutto lì. Vabbè, dai, ci sentiamo, ciao qua, alle prossime. Ciao Giulio, anch'io però, i costi sono costi, l'ho già in questo periodo, io gli ho detto ce ne vuoi di 213 ne ho, però c'era già lo 213, capito? Altri cavi non ne ho, io ho la Camille e le ispezioni del 213 che vanno dalle antenne, andavano dalle antenne al commutatore e poi gli ho tolti, però per lui già basta. Va bene, ciao di nuovo Giulio, vai che mi organizzo a portare il cane. Ma vai da due. Allora controllo, c'è nel cassetto, ce n'è ancora di quei cavetti, li prendo e li faccio tutti a pezzi. Meno male che ce l'ho io all'ascolto, che me ne sono accorto. Non stavo guardando lo Smith però, siccome ero sdraiato, no? E dunque ero solo all'ascolto. Ma sentivo, come mai c'è questo QRM? Ho girato lo sguardo allo smettere e mi sono accorto, ma sentivo così, capita, aspetta che l'avviso subito, se no magari potrei fare l'anno. Hai fatto bene, perché anch'io ero con la luce di cortesia, non stavo guardando lo smitter e quindi non mi sono accorto che il segnale non stava oscillando. Quando mi hai avvisato tu, ho visto che era a Santiago 1 lo smitter, anziché a Santiago 9, capito? Ai, vabbè, vai, può succedere, ma mi è già successo anche col 440, te lo immagini, lo stesso spezzone, uguale a quello, ne avevo messo uno al 440 e uno al 140, il 430 c'è l'antenna diretta, che c'è le direttive attaccate, le direttive di polo c'è attaccato, meno male, grazie comunque, vai, ci aggiorniamo dopo se coincide, ok? Certo, in figurati, ringraziamenti, lo seguo, non c'era bisogno, figurati, sarei stato stupido se non te l'avessi detto subito, ci mancherebbe altro. Vabbè, dai, diciamo che sono attento, mettiamolo su questo tono, ci sentiamo, ciao qua, buona passeggiata con Filippo, ma ciao. Ciao, infatti ora non mi butti in bio, adesso accendo la luce sempre dello strumento della T230, ce l'avevo spenta, ecco perché non vedevo lo strumento. Va bene, ciao Giulia, grazie. Ciao, se ci sono io l'ascolto, puoi stare anche al buio perché già sono attento io, non è un problema. Babbo, ci sentiamo, ciao. Ciao Giulio, ciao. Antonio. Pompetta, buonasera. Io ci avessi tutta voce in oca. Andare. Come va? Bene, tu? Anche io, va. Uia, mi sono qua a vendere i pantaloni. Ma manco potrei respirare un po' qualche cosa. Anto! Cosa vedi da stanotte? Avanti, chiamo Antonio. No, tu. Che ti intendo io, dimmi. Tu che ho messo l'alimentatore stasera anche, dai. E con quello abbiamo trovato l'antenna. Come sta arrivando bene, sì? Bomba, G. Andava bene, dai. Ma hai mandato la uguale al tuo, Xiaomi? Però il mio è da 50 ampere. Hai preso un po' più grosso. Sì, è stato tutto modificato. Gli ho messo il tastino all'accensione, il tastino per la ventola, accendi e spegni, e poi vabbè, gli ho messo le bananine dietro. Perché per la ventola accendi e spegni? La ventola non deve stare sempre accesa. Allora ti mando una volta, sì. Ehi, domani trovare l'alimentatore delle carabinieri, accendi e spegni. Così è. Ciao Claudio, buonasera. Grazie a te, buonasera, ben ascoltato, mi come uomo rientrai. Mi fa pazienza se l'avete fatta, dai. Sì, se l'avete fatta, ho 10 minuti, non è che... Va bene, va bene, contento lui, con quell'antenna, contenti tutti noi. Giallo credo, giallo. Comunque buona mio, oh, non è che... Infatti non si vincendo, i bundichi non andavano in nulla. Questa invece riesce a regolare le stazionarie, riesce un po' a aggiustarla. Sì, le stazionarie lì c'è quell'albero in mezzo alle balle, quindi un po' le fa da riflesso, capito? Infatti ce l'ho fatta appena il radialetto, un pochino più su, perché era troppo basso. Non più lì se non riguregge, dai. Già va bene comunque, almeno esce bene, dai. Va bene, va bene. Chi c'è qua? Tu, Luca e Pomponio. Chi più il cellulare, vedi? Lasciatemi mettere in sesto, vai, se vorrevi da là. E vieni, Antonio. Mettiti in pigiama, che tu sei più peloso. Tu più peloso. E allora? Te lo credo. Crocco. Ma sembra uguale al mio, Luca. Sembra uguale al mio. Il mio è 30 ampere, quello lì è 50, no? Non sono tutti uguali, il 20, il 30, il 50, ma io l'ho modificato, non vedi come l'ho fatto? Il gigante del bagaglio visto da Mucimia. 22. Eppure io l'ho pagato 21, l'ho pagato, però il mio è 30. E che è 50? E non è male, non l'ho trovato la 50. E vabbè, dai, già. Non è che cambi tanto, cioè già cambia tanto, però la prossima volta me lo piglio la 50. Io con la 50 l'ho fatto, figurati. Ho pagato 20, 25 mi sembra, una cosa del genere. Infatti parlo quello con la ventola e l'ho reintegrato per dire che non c'ha i fori, è tutto un pezzo metallico, capito? C'è la ventolina che fa casino e basta. Funzionava benissimo, l'ho usato giù in casa di Giovanna e a voglia di roba me ne pilotava a voglia. Adesso in seguito me lo riprendo, ma non è che devo usare il cantengo, non lo fai 50 ampere. Ne ho 20 da parte, ce l'ho agganciato allo Iaiso, alla quadribanda, e lo pilota come si deve. E capa! Kiwi, se mi pigli un ghiso ti pongo un B300 a vedere se funziona bene. Certo che funziona bene il B300, ci mancherebbe. Capa, e più là so di una persona che ce l'ha e mi pare che mi rubiglio. Io ho un 550. Anzi, io devo chiedere a Letta, se non se ne fa niente me lo faccio dare. Figurati. Ciao, 550 di macchina, dove ci posso, ciao. C'era a Cagliari, c'era. L'unica cosa rimasta è quella, la Mantova gliela buttata nella Mondezza, i parenti, il 2009 l'aveva regalato, mi ha detto, e gli è rimasto l'FM500S e il 550 e la Turbo 2001 gli è rimasta. Vabbè, non è rimasta nessuna altra cosa. Che c'ha roba? Lì Andrea Manicomio, Di Roma Manicomio. Andrea Manicomio, parlava tanti anni fa. Adesso è a Cagliari abita, capito? Scappa. Ci te lo date, chi c'è bello? 5,50, certo che è bello, cazzo. C'è un infilimento un bello scatolone, li metto in watt, metto l'alimentatore 50 ampetti, si è fatto un bel lineare. Lo fai e già gli scatti ce li ha già, non fai altro che purificarlo e ti si è fatto un bel lineare a 20 a coso, tipo BV2001, hai capito? Lo scatolone grande, metallico, ci fini tutto lì e si è a posto. Cioè, è bello già così. Ragazza classica qui. Guarda, il cellulare. E vabbè, io già ho il 2002. Devo cambiare un filare e basta, non cambiare di altro io. E lui è a posto come prima, 450 watt te lo tira fuori. A un momento lo tira fuori 120. Quindi facciamo comprare di solito il finale che stanno in perdita. Una volta che lo prendo con calma lo sistemo e ce l'ha posto. Cappa, e che ci sia sombettia, vabbè, e l'ho bruciato per colpa mia la verità, perché c'è un sette stazionario. Come l'ho lanciato, schiacciato portante con l'antenna, la X300, boh, fu tutto. Ah, fanculo a me. Se no era tranquillo come lineare. Tu perché il moduli con una sette di stazionaria? Perché è stato imbecille a lanciargli l'X300, ho capito. L'X300 sotto la manto ma non va bene. Mi ha dato 1,7 stazionale più, come ha lanciato lineare a sesta posizione, con le 58, ciao mi, pum! Macribado un finale, macribado. Ma quella è colpa mia, perché altro. L'altro non l'ha bruciato, perché l'altro è più riparato e è andato bene. Funziona benissimo, è a Olbia. Invece l'altro me lo sono pigliato io, gli ho detto no, anche se ho bruciato finale me lo tengo io, non me ne frega un cazzo. La colpa è stata la mia e me lo tengo io. Ma non ne ho voglia, mi cambio il finale, tanto costa 30 euro, non è che sia questa cantina, è la spesa. E siccome sono quattro finali da 120 watt ognuno, che risuona anche in VHF eccetera eccetera, me lo sono tenuto per quello. L'ho pagato e sono tranquillo. Allora, il mio funziona, 120 watt funziona, me ne dà, torni torni. Non ci può contare questa cosa, certo che lo posso aggiustare, devo cambiare un finale e basta, devo avere pazienza. Prima sto pensando a me, poi sto pensando al baracchino. Adesso siamo in periodo di Covid-19 eccetera eccetera, e quindi hai capito, da una cosa all'altra sto stringendo, perché sono due mesi che in pratica non ritiro niente. Adesso dopo dicembre adesso mi ordino il pezzo e me lo cambio e sono a posto. Ma sai che te ne fai, ragazzi? Io non attaccare a questa cosa. Anch'io. E ora che l'ho pilotato con questo barattino che sto usando io adesso, ho un 87 euro. 15 watt l'ingresso, tondi tondi, un siluro, Emi. E ho un gioco di aria, un siluro, non ti preoccupare. Sto succedendo. Zitto. Speriamo che non portano nessuno in giro. Cappa. Luca, dove sei? Tagliamo l'albero, dai. Faremo la lotta di tagliare l'albero. Senti Antonio, io adesso schiaccio, guarda. Guarda che sei fatto. Non ti dico cos'è, ma sono quelli che portano le persone da una parte all'altra. Ogni 14-20 minuti quando chiamano. E chi è? E secondo te chi è? Che c'ha, come si chiama? Ha pronto soccorso, cosa c'è? Ah, ho capito, capito. Acuzzelli, zero. Ehia. C'ho l'ingresso a Ponte, uscita a Ponte. Ma che vuole entrare, avanti. Volumeno non funziona. Deve sapere la frequenza d'ingresso e anche l'uscita. Ah, ho capito. Io ce l'ho, ciò che quello è di quello che metti fuoco alle piante. Cosa devi pure fuoco alla pianta? Metti fuoco, cosa ti posso dire, agli alberi di casa tua. Chi devo pure fuoco agli alberi di casa mia? Così almeno so quando stavo rubando da te. Ah, cazzo, ma non li sentivo più. Ci sono, ci sono. Ah, ok. Devo chiedere una cosa in privato, Antonella. Aspetta che te lo dico. Prendi il cellulare. È acceso, è acceso. Chi è che c'è qui? Andiamo, andiamo. Io sono arrivato adesso. Quale sa adesso? 8:30. Marina, ci sei? Marina. La. Aspetta un attimo, tu. Mi sta chiamando Marina a sentire lei come esce. Ma tu non hai modificato come il mio altro? Ah? Beh, dimmi o lui. Ehi, eia. Beh, Maria, non si intende. Aspetta, che sarà al telefono con la mamma. Ehi, a capo. Vabbè. Oh, mia. Stracco gioco, mamma mia. E care chi ci va al telefono? Posso? Prova, Maria. Prova, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aspetta, riprova. Prova, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tranquilla, a posto, va bene. Puoi anche chiudere. Ma c'è un giocattolino nuovo qua che non l'avevo visto. Giocattolino nuovo? L'alimentatore, Maria, è quello. Ecco. Non lo sapevo. Dove sto ora? Va bene, passo e chiudo. Buonasera a tutti, ciao. Sì, perché quello che c'era prima non andava bene, dai. Questo che c'è adesso va molto molto meglio, capito? Sono rischi che magari il macchino si rovini. Fa pure da ventilatore. No, quella c'è la ventola. E infatti mi sta cancarando la fronte. Vabbè, dai, chiudi, ciao. Ciao. Da ventilatore. Luca. Luca. Eia. Ma ti è arrivato quello che mi avevi detto? Sì, l'ho già piantato di là, sì, Marco. E funziona bene, pulito, tutto a posto. Quindi sì, è una buona spesa quella. Ci farò un pensierino, dai. Ma io l'ho modificata, aspetta, mando la foto. Scusate l'intromissione, chi c'è? Antonello, I carabinieri di Altara, quelli di Usino e... Non aggiungo un peso. I carabinieri di Altara, più quelli di Usino, che siamo a posto. Davvero? Davvero e davvero, scatta, non lo so io, scatta. Avvi davvero, ma no, che... Davvero? Ehi, ehi, stai, mi sto organizzando qua per guardarmi la partita. Oh, Claudio. Siccome qua è rimasto acceso ieri, ho sentito che hai fatto tipo un'ultima chiamata e nemmeno 5 minuti dopo c'era un segnale a Santiago Otto. Poteva essere con la micro a Port Torres, quello che hai nominato ieri. Oh, non lo so, l'ho sentito oggi perché ho avuto un altro in famiglia e quindi non abbiamo potuto fare nessuna prova, ce la vediamo dopo, più tardi, se mi telefona. Si sta funzionando con la radio. Sempre se era lui, Io ho visto premere la portante a Santiago Otto, però non potevo rispondere là, poche parole. Va bene, dai, riprendete. C'è anche io, Antonio, ho sentito bombo, lo vento. Ma io torno a mangiare, c'è la partita, rimango ancora lì, sentiamo dopo. Eia. Ciao a tutti, ciao. Ciao, Marco, ci sentiamo dopo, vai, adesso lo comincio la radio. Ciao, ci sentiamo, Marco. Quando arrivi Marina, forse? Cosa? Ma Luca era di gente. Sì, già li va bene, abbastanza bene, dai, va bene. Ciao. ciao Anto, l'ho visto Luca, hai messo addirittura la spia, ma hai bucato il contenitore per mettere i buchi, dai, così rosso neri per le banane. Per forza Marco, senza buchi non entrano. No, io avrei fatto una cosa meno invasiva. Un semplice spezzone, proprio 5 cm filo rosso nero, fissato ai morsetti e poi le banane femmina volanti. Capito? Lo attaccherà al cavetto. Ah, porcheria, meglio così com'è. Sì, volendo, è più ordinato, dai. Ma e questo cos'è? Anche l'interruttore è messo. Troppo dogo. Detto così. Ma sì, davvero cingla. Io lo lascio così presto, mi sa che l'interruttore glielo mettono in questi giorni. E mamma questo della maggiore il bongo. Eia. Però Luca non so se l'ha provato sotto carico. Tipo l'hai provato con qualche tipo linearetto, roba che assorbe molto. No, aspetta un attimino Marco, sto controllando un coso. Un attimino di Netflix, non ti cazzo di già. Facci. Che giornata brutta oggi. Non ho combinato niente, ieri ho fatto un bel di roba, oggi zero. Brutta. Ne voglio pigliare uno da 50 ampere, me ne voglio pigliare, cazzo fa 2 ore in più. Ma adesso rimane quello, tanto non è che lo uso spesso. Sì, guarda, quello di Luca è uguale al tuo, c'ha la stessa identica forma, però è 50 ampere. Naturalmente poi che siano effettivi, reali, quello non lo so, da provare. Bisognerebbe provare un linearetto grosso, tipo il B300, vedere se regge. Voglia il regge, quello mio, e non regge con questo. Ah, ma stavano dicendo che c'è un trimmerino che va da normale 12 e poi va da 13 qualcosa. Sì, c'è nello schemino frontale V-Adjust, cioè volt, puoi regolare i volt, cioè se lo vuoi che ne so, anziché 12, 12 e mezzo o 13 lo puoi regolare, capito? Puoi regolare fin quanto arriva, sarà 13 e mezzo al massimo, non lo so. Antonello, Pomponi, riprendi. Aspetti, ma dove è fatto? Infatti, ti stavo dicendo, io voglio provarlo, alzarlo un po' di più, però non so come bisogna fare. Aspetta che guarda la foto tua, del tuo, guarda che all'estrema sinistra ci dovrebbe essere una specie di trimmerino e una serigrafia V Adjust. Aspetta che guardo che il tuo come fa. Se lo porto a 13 dovrebbe andare un po' meglio, no? Allora, la foto vabbè è un po' sfocata, però si capisce, c'hai il LED verde a sinistra, no? Proprio attaccato al LED verde a destra, lo vedi quel trimmerino arancione o giallino che sia? Quello dovrebbe essere la regolazione di volte. Guarda che c'è una serigrafia sul bordo di alluminio. Quella dovrebbe essere la regolazione della tensione. Naturalmente il range sarà forse 12-14, 12-13, 12-15, capito? Non lo voglio toccare perché sennò magari sbaglio. Sarà 13 e qualcosa, dai. Cioè se lo porti a 13 già va bene, ma cioè, se lo è di meno non va bene. Se lo voglio toccare. Sì, naturalmente se dovessi farlo col tester controlla l'uscita. Cioè non lo fare con baracchini accesi, cioè togli tutti i baracchini, metti il tester, lo regoli, eccetera. L'importante è che non sia troppo a filo di 12 o meno di 12. Non sia che qualche baracchino soffra di sottoalimentazione, soprattutto questi moderni digitali elettronici tipo il Polmar, ma lo Zeus, scusa. Ma appunto mi sta venendo quel dubbio lì, mi sta. Oh, si accende bene, però magari può essere anche quella alternata. Ah boh, ma te lo fa solo con lineare? No, anche senza. Da vedere tu. Ascolta, no? Cosa ti volevo chiedere, ma quella morsettiera dove tu hai stretto i fili con quella vitina, c'è un coperchietto di plastica trasparente per evitare di metterci le mani, le dita, no, perché all'estrema destra arriva la 220, ci avrà un coperchietto, qualcosa? Sì, sì, sì, ma sto scherzando, se no cazzo di una cosa che manco guarda, accusi. No, stavo pensando, siccome c'ho i gatti, non è che il gatto gli ci mette la zampa sopra proprio sulla 220 e rimane folgorato, arrosto lo fa. Sì, me lo magneggio. No, no, c'è la copertura, c'è. Capito, è coperto. Vediamo Antonello se sta mandando foto. Vediamo. Cazzo, se no ti invidio una cosa che manco quadra con... proprio il coperchietto, quello che copre, cioè, capito? Non è neanche bianco, di colore, come si chiama? Un colore giallino strano. Ma guarda! Però già va bene, ma secondo me io se lo porto a 13, sono convinto che non mi dà più problemi. Da provare, vediamo un po', partite ci sono. Beh, se la guarda Claudio sarà la Juve, dai. Vediamo un po'. Quindi l'ora sarà le 9:21. Ma di oggi è questa cosa, non ce l'ha data. Sì, sì, martedì 3 novembre, alle 9 c'è Real Madrid Inter. Oppure Atlanta-Liverpool, Salisburgo-Bayern, Manchester City-Olympiacos, Mitra-Ajax, no, ma non c'è la Juve oggi, non c'è, almeno, non lo dice. Sarà quella dell'Inter sicuramente la partita. Champions League, però dice anche, no, non dice che partite sono. Non ti perdi niente, io giusto perché non era juventino, mi simpatizzo per il bianco e il nero, e poi una cosa metafisica un po'. Antonio, aspetta che guarda i messaggi, la foto, cos'è? Anche pure un nonno era juventino, era. Mamma mia, quando venne nei battiti all'epoca. Non mi scusate la televisione, sennò per rubare Gesù Cristo, quindi via. Mi sfascio il capo, me. Ehi, Antonè, aspetta, Antonè, sì, vedo le foto, però la seconda foto è completamente sfocata, mossa. Sembra che ci abbia il Parkinson. Cerca di farla bene, no? Non si capisce manco la marca, forse Intec, boh. Quello è importante, diciamo, so, aspetta. Tra l'altro qui sotto ci ha capito, sì. Antonè, forse Intec KT è qualcosa, ma non si capisce, è troppo mossa. Te lo sto mandando, aspetta. E poi vabbè, i primi sono quelli Pacific che mi ha detto ieri. Caspita, nuovi. Quello mi appena diventi ricco e famoso, ti compri lo yacht e te li usi. Mezzo a tutto. Questo è quelle VU, la macchina. Sì, visto, quello lì, quello di cui abbiamo parlato ieri. Ah, KT250 EE, ma questa è roba del millennio scorso, questa è roba, cos'è, a Contraves per caso? Ehi, a Contraves infatti, sì. Mamma di turchi, ma cos'hanno, pacco pile vuoto da mettere in stile oppure l'accumulatore esaurito? No, l'accumulatore è buono, sono qui Luffy, non è che sto facendo una congrafia. L'accumulatore è buono, l'ho caricato e sono a posto, l'unica cosa sono i vuoti fermarini, quelli che devo cambiare la batteria all'interno, capito? Monta 5 batterie da 1,2 di quello modello Miristino. 5? Cioè non 6, 5, dispari. Vabbè, fatto così. Esatto, sì, quello infatti devo dire. lo ordinano su internet per forza, perché a farle tu è un casino, non ci riesci a infilarci all'evento. Mi ricorda qualcosa, Antonio, cioè dovrai, tu praticamente, come fai a cambiare gli elementi? Devi rompere il pacco, devi aprire il pacco con un lattore, devi tagliarlo, sezionarlo, roba del genere. È un casino perché ci stanno giuste e giuste, non sono pile negli stili originali, capito, sono più fini, proprio più fini, so, ce ne sono 5 ho visto. Quindi devo dare il pacco suo originale, per forza. Però la funzione funziona bene, aspetta, c'hanno anche dei tecnologie VIP, eccetera, eccetera, sono belli i miei con il portatile, sono video, ma no, avuto ma con graffio. La stessa fine faranno quelli famosi digital. Non esiste pacco batteria di ricambio, non esiste, proprio non esiste. Non esiste il battery eliminator, quello volevo dire, dai. Non trovi più le pile di ricambio, a saperlo prima. Vabbè. Vabbè, qual è il problema? Già ce lo diviamo un paio di quei portatili come si vede adesso. Digitali. Ce ne pigliamo uno tu, uno io, lo paghiamo assieme, uno te lo pago io, uno lo paghi tu, e così parliamo. No Antone, no, fatta l'esperienza, abbiamo sperimentato, è una giabidura, fine sperimentazione, mi è bastato quello che abbiamo provato già, alla fine siamo sempre lì. Preferisco l'analogico, almeno la modulazione è chiara e non tutta robotica. Ti ricordi? Sono stato uscendo con quelli in auto, no? Quelli piccoli glielo sai da macchina. Mettiamo quelli e se la piglia in culo. No Antonio, guarda, se farò una spesa mi prenderò un rosmetro serio. Ci ho aspettato troppo, quello piccolo sta piano piano sbarellando, quello smetrino, cos'è, Proxel, Uxel, sta cominciando già a perdere, mi era anche caduto a terra, magari il Diamond SX200, minimo, quello Dive è bello, ma vabbè, troppo, costa il doppio. C'è la comodità che non devi fare ogni volta il tarare fondo scala, se cambi frequenza e non so, ho tante cose in più però. Ok, Antonio riprendi. Antonio? Bianco per me un attimino. E sicuramente Antonio sta cucinando. Se già non ha cenato, che ore sono? Questa vedi? Le 9:10. E infatti adesso cerco di vedermi qualcosa. Intervenzione. Adesso che se n'è andato purtroppo Sean Connery e Proietti ci stanno facendo una bella ripassata di film con loro. Ieri c'era Caccia a Topre Rosso, molto bello. Ieri però, non oggi. Sì, ieri sera, notte, adesso non mi ricordo. Sempre bello, ho visto, vabbè, lo conosco a memoria, però è interessante come film. C'era ancora l'Unione Sovietica, te le immagini? Poi 2 anni dopo è crollato tutto, cioè, tu sei, vai. Cioè, praticamente si intende lo bip solo, la modulazione se è come ieri, basta. Sì, tutto ciò che vuoi, però se c'è segnale e poi la radio è bassa. No, comunque è capibile, Antonio, lascia, avrò il volume basso io. Capibile la modulazione. Luca, c'è ancora? Sì, aspetta, uscendo di testa con questo coso, ma un attimino, ora sono qua in ascolto. Se no, cavolo, regalo bubiti, lascia vedere. No, ti volevo dire in breve, ho visto il segnale. nel lato QTH e sembra tutto regolare come gli altri giorni. Ho capito che l'hai tarata meglio, così è. Sì, a causa della tarata. E quindi avrai ottenuto 1.1, 1.2, dai, in 40 canali, sicuramente. No, 1.1, poi già va molto molto meglio, dai. Allora, abbiamo detto, mi perdo un attimo. E cioè il suo microfono, Antonetto. È che non ho voglia di attaccare, qua c'è io sto usando il ricevitore come sempre qua. Non voglio attaccare cavetti, cavettini, se no avremmo fatto la prova con un vero apparecchio per ricevere meglio da. Sì, diciamo che se funziona già valeva quello che costava, anzi prima costava di più, quando è uscito costava di più. L'ultimo prezzo che ho visto da Robotrader era tipo 59 euro dall'Europa, cioè venditore cinese, ma la merce in Austria te lo mandano da lì, arriva in 5 giorni, dai. Stai parlando, Marco? Con la motopompa in PMR, esatto, lui è qua, sì, è tutto respirato, me lo senti? Che giornata brutta che ho passato, per carità. 7,27. Ehi, vedo che la frequenza langue stasera, dai. Penso che staccherò subito. Tanto mi chi cena, chi ne farà, eccetera, giustamente, non è l'ora giusta questo. Io mi attaccherò alla TV, vediamo se c'è qualche zozzeria da guardare. Maria, con la zozzeria. No, zozzeria nel senso qualche film passabile, telefilm, serie TV, qualcosa. Io non, per esempio quella roba lì, Grande Fratelli, Casa dei Bavosi, Temptation Island, Uomini e Donne, quelle cose sono tabù per me, non le posso guardare, non le devo guardare. Ti ho detto meglio Pippo Baudo. E la rete non c'è più Pippo Baudo, che la fai? Yeah. Vabbè, sono piccolini ma bellini, la verità. Non pensavo che rendevano così queste GG così. Infatti quello grande l'ho messo in scatola, quello che mi hai detto tu, cosa volevo fare fuori? Cioè guardarsi. Cioè messo in scatola, uso quello piccolino, poi c'ho l'apparecchio sulla 27, poi c'ho i due palmari marini, non è che se me ne frega di resto della roba, scappa per quello che c'è, basta e avanza, a un certo punto almeno non devo stare a girarmi i potenziometri, per il momento, poi vado sarà, lo troverò fuori, il fatto che sia bello tranquillo in scatola, luce. Ma le luci delle scarpe? No, guarda, cioè le cose per uccidere le scarpe, se lo vuoi, e quelle con lo spray per i mobili, se ti va bene, dovete, no, ma con l'acqua, non sono l'altro. Va bene. Oh Marco, ho messo un'antenna diretta, sta accanto anche la T230, perché questi spettatori non mi piace. Adesso me li faccio nuovi con gli altri PL, adesso attaccato diretto, va bene? Sì, ti ho anche attenuato, sì, Santiago 7, attenuato. Tutto regolare, non danno molta perdita agli spezzoni. Io lo stesso ne ho uno che mi ha dato da fare e non riuscivo a capire qual era dei tre, dei vari spezzoni, poi l'ho individuato e ce l'ho buttato. Infatti mi manca uno spezzone. Cioè se uso, già lo sai, no? Aiutino più il filtro, non ho lo spezzone per il wattmetro, prosmetro. Sono in deficit di uno spezzone, mi devo pigliare un po' di RG58 che abbia la calza fitta però, fatto bene. E possibilmente due PL in bachelite da ordinare da internet, perché qua non ne trovi. e anche se lo trovi te lo fanno pagare il triplo. No, vabbè, io non c'ho solo aspettone, c'ho l'accordatore, cioè il commutatore d'antenna su, il commutatore d'antenna giù, quello elettronico che poi passa tramite la T230 per deviare le radio dalla commutazione unica ingresso, dai, dell'antenna interna alle varie radio, capito? Quindi già ce n'è di più, detto non ti preoccupare, così l'antenna è diretta, proprio cavo in discesa, diretto alla radio, capito? Va bene ragazzi, sta iniziando la partita e quindi io per il momento rimango in ascolto, ok? Abbasso il volume e rimango qua. Ciao a tutti, buon proseguo, buona serata, buon fine, buon bim bom bim bom ba, ok? Ciao. Eia, dai, buona visione. Ma non è la Juve, no? Io ho letto Inter e non so chi, no, non è la Juve oggi. No, no, è Real Madrid Inter. Non di certo mi guardo il gioco dell'Inter, non me ne frega niente, però c'è una squadra italiana. Voglio vedere come gioca Real Madrid, perché potrebbe essere un'avversaria della Juventus. Ok, dai, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti, riprendi Antonio. Forza Cagliari! Forza Gattedo! Se l'ha dato il portatile, perché favorito a coso, mi avrebbe mandato a fanculo come minimo, dico. Allora, interista, Gattati, Juventino, tutte e due. Vabbè, ognuno ha le sue cose. Dai, a dopo ragazzi, ci sentiamo, vai Marco lì, saluto tutti quelli che sono in ascolto, ciao ciao. E a ciao ciao. Ciao, ciao, dai. Vediamo se rientra Bombolo, Antonio raccontami qualcosa di bello. Sto parlando al muro, sto. Me ne sono accorto infatti. Se non ci sia nessuno, magari gente che ce l'ha. Ehi Antonio, spero che vado a pigliare la bottiglia dell'acqua, un attimino. Arrivo subito. Ehi, ok. Come dice quella dei i soliti idioti, quella che fa la. Quella delle poste. Un istante scende subito da lei. Io ti volevo mandare l'ambulanza al 118, solo ho bisogno di un vino. Venite a prendermi. 118, mandami la neuro direttamente. Milano, senti Ponte, non lo sto facendo io, intanto si accende da solo, si accende. Ascoltano, ma non trova nessuno, lo sai, è strano. No, abbi fede che qualcosa arriva prima o poi, abbi fede. No, ma è strano, non scatta il conte, ma no, non parla mai nessuno, è strano. Non lo so. Cosa c'è che abbiano anche affiancato apparecchiature digitali, mia, quelle solite? Serve anche ora. È quello che sto pensando infatti, che sia tutto digitale in pratica. Quando sento questi arriva magari i dati, non lo so, qui qua. Così non appare niente, invece quando ti succede scaccio fatto. I pacchetti dati, qualcosa di. Qualcosa c'è. Vabbè, questa è la memorizzazione vecchia della frequenza, quindi non lo so se sia magari diversa, questo non te lo so dire.